La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, in questo giovedì 26 di febbraio sono le 16:30 primi 30 secondi, qui siamo in diretta dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e vi ricordo versione di Oscar, @radio24.it per chiedere argomenti di puntata, autoinvitarsi per esporre casi e naturalmente anche criticare, io rispondo e mi becco le giuste critiche, quasi tutte, quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista. Una precisazioncina prima di andare all'argomento della giornata per chiedervi di intervenire all'800 24 00 24 e con gli sms 349 238 6666. Poiché da moltissimi mesi, anzi da anni, ricevo lettere praticamente tutti i giorni sull'argomento che è relativo alla sigla, sono stato indotto a una riflessione. La sigla, cioè i Doors, This Is the End, eccetera eccetera, al di là e al netto di tutti quelli che consideravano che portasse male, ovviamente non è lo spirito scaramantico con cui considerarla, io credo di non aver sbagliato in tutti questi anni, perché come avete visto ci annunciavano la ripresa nel 2012, poi nel 2013, poi nel 2014, non è mai arrivata. Quindi abbiamo frenato l'entusiasmo e l'ottimismo che, capisco, dopo le lunghe notti della crisi bisogna avere, perché ci siamo attenuti ai dati. Allora facciamo una cosa, siccome ci stiamo inoltrando in questo 2015 in cui adesso da una parte il governo e tanti dicono esploderà la ripresa italiana, e ce lo auguriamo tutti ovviamente, e qualche segno soprattutto internazionale c'è, il petrolio, l'euro, la BCE che fa gli acquisti dall'inizio di marzo, adottiamo il seguente criterio. Naturalmente è discutibilissimo, me ne rendo conto, magari non vi piacerà, criticatelo, scrivetemi oppure telefonate anche oggi in trasmissione. La mia opinione sarebbe questa qua. Al netto delle previsioni, se davvero questo primo trimestre, che finisce tra poco, tra 4 settimane, vedrà una crescita nel trimestre, diciamo più 0,3, cioè una cosa che ci faccia sperare, siccome ereditiamo già un meno 0,1 dal quarto trimestre del 2014, una cosa che ci faccia sperare che cresciamo l'1,2%, ecco, che come potete immaginare io considero una cifra bassa, ma certo è meglio rispetto ai segni negativi degli ultimi 3 anni. Se queste ultime settimane del primo trimestre si concludono con un più 0,3%, cosa che sapremo poi entro qualche settimana dopo, a questo punto apriamo il grande concorso su quale canzone ottimistica possa sostituire This Is The End. Ve lo volevo dire perché non immaginate che sia una mia così valutazione personale, perché voglio fare il pessimista. Speriamo che davvero ci sia un'uscita da questi anni di crisi, però un'uscita deve essere almeno l'1% l'anno, ma almeno il minimo. Guardate che saremmo comunque in fondo alla graduatoria europea, stanno facendo tutti meglio. Oggi abbiamo avuto il dato riclassificato della Spagna, sulla Spagna nel 2014 tutti hanno sbagliato, ma al ribasso, perché è cresciuta più dell'1,5% nel 2014. Ovviamente hanno ancora un mucchio di guai, ma noi nel frattempo abbiamo un mucchio di guai e la crescita non l'abbiamo vista. Chiuso di questa parentesi per capire la sigla, andiamo all'argomento di oggi. Oggi parliamo di 3 cose della follia fiscale italiana, 3 esempi per capire come la pensate obiettivamente. Il primo esempio è quello di un contribuente di Torino che si sente dire dal 1989 su una cartella erariale in debita che gli ha mandato lo Stato, e lo Stato ha perso in primo grado, ha perso in secondo grado, ha perso fino alla fine. E lo Stato a questo punto, siccome naturalmente il contribuente l'ha pagata per andare in contenzioso, ho dovuto mettere altri soldi sul tavolo e così via, lo Stato non gli restituisce se non l'importo della cartella e non gli dà gli interessi sulla cartella, che sono dovuti. Sapete perché? Poi ve lo racconterò tra poco, ma perché l'Agenzia delle Entrate dice a questo contribuente di Torino: non siamo in grado di fare il calcolo dell'interesse composto dovuto su questa cifra dal 1989 a oggi. Non abbiamo il software. Allora, primo caso, la mia domanda è: che cosa fareste voi nel vostro paese ideale ai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate che sono responsabili di questa risposta? Io vi dirò tra poco cosa farei io, però Primo caso, lo Stato ha benissimo nel incassare e fare i conti di tutto quello che gli dobbiamo quando rateiamo, e grazie al cielo ci hanno fatto la rata fino a 72 mesi, ne abbiamo già parlato più volte, abbiamo anche riconosciuto che nella crisi lo Stato ha rateato meglio delle banche, bisogna dire le cose come stanno, mentre le banche continuano a non sentirci, però lo Stato lì è bravissimo a fare i conti degli interessi che gli dobbiamo. Quando si tratta di restituire, lo Stato sostiene di non avere il software, cioè il software, capite? Una banalissima calcolatrice che faccia il conto dell'interesse composto anno per anno, degli interessi che si sommano su quella cifra dovuta. Questo è un fatto vero, avvenuto, di cui vi darò i particolari tra poco. Secondo fatto, qui non siamo più a Torino, ci trasferiamo a Bologna. Ci trasferiamo a Bologna e avremo anche un ospite che naturalmente poi ci dà i commenti su questa vicenda. A Bologna il comune, nella grande gara dell'aumento dei tributi locali che si è scatenata in questi anni, Bologna ha deciso di fare una tassa. Sapete che ci sono le tasse sull'occupazione del luogo pubblico, va benissimo, sui cartelloni pubblicitari, va benissimo, però il comune di Bologna ha deciso di tassare qualunque scritta ci sia sulle vetrine, sulle parti esterne di un qualunque esercizio pubblico, come un messaggio pubblicitario. Quindi quello che avviene da sempre per qualunque ristorante che mette fuori fuori il vetro o alla porta i menu per consentire a chi passa di leggere se vogliono entrare e consumare quel ristorante, quello è tassato come se fosse un cartello pubblicitario. Allora, la vicenda la trovate su Repubblica, e il soprannome che è stato dato agli esercenti bolognesi di questa tassa è giustamente, a mio giudizio, la Delirium Tax. La Delirium Tax. Anche qui vorrei capire se secondo voi è giusto che si arrivi a tassare le parole come se fossero messaggi pubblicitari. È ovvio che con questa se si adotta questa bella strada, non lo so, si potrebbe dire che per esempio l'esercente parlando al cliente magari sta facendo pubblicità, paghiamogli anche le parole che pronuncia oltre a quelle che scrive sulla vetrina. Naturalmente qui non stiamo parlando di idee balzane. Nel frattempo a Bologna devono pagarla questa tassa, capite bene che un altro piccolo, mica tanto piccolo, piccolo grande esempio della follia fiscale a cui lo Stato ci sottopone, perché naturalmente una volta stabilita l'imposta è coattiva e non è che esiste una contestazione ex ante del suo fondamento, della sua illegalità, incostituzionalità della pretesa. Lo sapete, viviamo in un paese in cui la legislazione, con tanto di migliaia di sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia fiscale, parte da un fondamento che l'ordinamento pubblico, imponendo, ha sempre ragione. Tu prima paghi, poi se ne parla. Ecco, questo è il principio che ai miei occhi è da rabbrividire, che grava sulle nostre spalle. Terzo esempio, sapete che questo governo ha aumentato significativamente tra le imposte sul risparmio, sia quelle sul risparmio puramente finanziario, e poi ci ha aggiunto con la legge di stabilità anche una tassazione retroattiva sul risparmio previdenziale complementare, cioè sui soldi che mettiamo da parte, che molti di noi mettono da parte perché hanno capito e sanno perfettamente che con le pensioni retributive contributive non sarà più il Bengodi delle pensioni retributive, quindi le pensioni saranno molto più basse rispetto agli ultimi redditi da lavoro, e quindi bisogna sostenere l'assegno previdenziale con una pensione privata, per cui si contribuisce aggiuntivamente rispetto ai contributi obbligatori naturalmente dovuti all'INPS mentre si lavora. Ecco, allora la domanda è, in questo caso, perché lo Stato decide, alzando il prelievo fiscale sia sui prodotti di risparmio ordinari sia sul risparmio complementare gestito da fondi previdenziali per le pensioni aggiuntive dei privati, però perché adotta poi due criteri di tassazione ad aliquote oramai egualmente elevate o quasi, che sono diversi, e quando sono diversi, significa che mentre i prodotti di risparmio che voi avete magari in una banca o in una SIM o in una finanziaria, quelli sono pagati a scadenza. A scadenza significa che a quel punto l'imposizione scatta sui rendimenti quando deciderete il riscatto dei soldi dai vostri strumenti di risparmio o gestito o amministrato. Mentre invece sul risparmio previdenziale complementare, invece voi pagherete retroattivamente dal 2014 anno per anno le pagate le imposte, a seconda dei rendimenti che maturano sui vostri versamenti di risparmio previdenziale. Naturalmente la cosa incredibile è che se, come può capitare a seconda del tipo di investimento, dell'andamento dei mercati finanziari in cui hanno investito i vostri fondi previdenziali, ci perdete, a quel punto non è che pagate, però dovreste maturare un credito d'imposta che potrete riscattare solo una volta, che lo Stato naturalmente non vi paga, che potreste riequilibrare solo quando poi magari, come è sperabile, gli anni successivi il vostro fondo previdenziale abbia investito meglio, i mercati sono andati meglio, a quel punto guadagnerete, ma voi intanto lì dovete pagarle anno per anno. La domanda è, visto che sempre di risparmio si tratta, perché lo Stato sulle pensioni previdenziali, io sostengo che sia stato sbagliato l'aumento del prelievo, ma perché se le piglia per di più anno per anno, quando invece sui prodotti finanziari del risparmio se li piglia quando i prodotti vanno in scadenza? Ecco, terzo esempio, anche qui in questo caso è un esempio macroscopico perché si adatta a un'unica categoria, il risparmio, distinguendo tra tipi di prodotti. Perché? Per quale ragione? Perché ovviamente sul risparmio previdenziale l'idea è quella di incassare anno per anno. No, l'idea è secondo me di distogliervi anno per anno, poi dopodiché ve ne renderete conto più avanti di che cosa significa quando arriverà la pensione magra. Ecco, su questi tre esempi diteci come la pensate di un fisco fatto in questo modo, chiamate 800 24 00 24. Ma intanto sentiamo come la pensano coloro che a Bologna si trovano a dover fare i conti del proprio esercizio pubblico, del proprio bar, del proprio ristorante e così via, con la pretesa del Comune di Bologna di equiparare i menù esposti fuori, o qualunque cartello, indicazione, eccetera, eccetera, esposta fuori come se fosse un cartellone pubblicitario con le stesse tariffe, quindi con l'imposta dovuta sopra. Allora, per parlarne con noi e per spiegarci da dove nasce questa pretesa e che speranze ci sono di indurre a un ragionamento il Comune di Bologna, è il direttore di Confesercenti di Bologna, che si chiama Loreno Rossi, che ringrazio di essere ai nostri microfoni. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, questa novità a Bologna, come è maturata? Vi è stato chiesto qualcosa? Vi siete trovati di fronte alla novità deliberata dal Comune? Quindi, innanzitutto, com'è nata? No, il contesto naturalmente è il contesto in cui a livello di enti locali ormai c'è una ricerca continua di tassazione verso il mondo delle imprese, che fa più o meno il paio con il calo di trasferimenti statali che viene verso gli enti locali. Ecco, per cui sempre più c'è un aumento delle imposte locali e anche un'applicazione molto rigida dei regolamenti. Nel caso dell'imposta di pubblicità è già successo nel 2009 e succede di nuovo nel 2015, e si può contestualizzare nel momento in cui i comuni esternalizzano il servizio. Esternalizzando questi servizi di riscossione tributi a società private, che naturalmente sono pagate a percentuale sull'imposta pagata o sul recuperato rispetto al tema dell'eventuale, loro parlano di abusivismo rispetto all'imposta, ecco che contestualmente ci sono dei controlli molto rigidi. Queste società mandano in giro addetti a fotografare le vetrine dei locali, delle attività commerciali, questo è molto semplice, nelle vie delle città, e si va a intervenire nelle pieghe di una normativa che naturalmente che è statale, che se viene applicata in maniera molto rigida naturalmente dà spazio a elementi come quelli che sono stati chiamati in città di applicazione più che di un'imposta di una pubblicità, di una delirium tax. Ecco. Ma qui siamo appunto, come testimoniato da i conti che arrivano amarissimi per i commercianti e i ristoratori di Bologna, a delle cose che io non credo possano trovare una conferma, sia pure nella più estensiva applicazione delle norme sulla pubblicità. Cioè, leggo che è arrivato un conto di 2.800 euro a un esercente di foto ottica di imposta da pagare perché aveva messo in vetrina accanto agli obiettivi e diverse tipologie di apparecchiature fotografiche il prezzo, ecco, e gli è stato chiesto di pagare 2.800 euro come se fosse un messaggio pubblicitario. Allora la domanda che faccio è: voi con i vostri associati che tipo di impugnative avete in mente? Perché la mia idea è che si tratti di un caso di plateale eccesso di legge, di abuso di diritto, però da questo punto di vista... Sì. Alcuni anni fa a livello di governo centrale venne fatto un provvedimento giusto che esentava nella logica le piccole imprese rispetto al pagamento dell'imposta di pubblicità. Però venne scritto, anzi è stato scritto come si scrivono molte volte le leggi, e parlava di esenzione per le insegne di esercizio fino a 5 metri quadrati. Quindi adesso il tema è interpretativo, c'è chi dice le insegne di esercizio sono le insegne in alto che dice bar, ristorante col nome, sì. Le insegne che sono alle rotonde per indicare la tipologia di attività, no? Però... E si è cominciato a discutere su tutto quello invece che viene attaccato alle vetrine. Quindi diciamo la verità, voi non potete nemmeno essere sicuri della base illegittima di questa pretesa, perché stante all'interpretazione evolutiva della norma del 2009, in teoria potrebbe avere ragione a questo punto chi, avendo avuto la delega a raccogliere le imposte dal comune, ne dà un'applicazione così prescrittiva per cui un bigliettino in vetrina diventa un messaggio sul quale deve gravare l'imposta di pubblicità. È così? Questo è il problema. Cioè, noi ottenemmo allora che venivano esentate le carte di credito, lei pensi, per poter dire al consumatore che offre... Cioè quando c'è l'indicazione su ogni esercizio delle carte di credito che sono accettate lì dentro. Un'interpretazione estensiva porterebbe anche questa all'interno pubblicità di quella diventa. Se stai dentro nel 5%, il buono pasto, cioè io comunico al consumatore che do dei servizi, oppure per assurdo, e questo invece è proprio contestato, una rosticceria, faccio un esempio, che scriva nella giornata a mezzogiorno pronti polli allo spiedo, tac, parte la tassa. Se passa in quel momento chi fa pagare l'imposto di pubblicità ritiene quella una pubblicità, non è insegna di esercizio perché non è nell'insegna, ma è un strumento di promozione pubblicitaria dell'attività e quindi deve pagare capite che siamo alla follia, siamo esatto al di là di ogni cosa accettabile. Però il problema è che voi stessi vi trovate a non avere alcuna certezza che la base di legittimità dell'impugnativa sia riconosciuta, quindi il problema è che si tratta semplicemente di metterla sul politico e trattare con l'amministrazione comunale. Voi capite però, cari ascoltatori, che così facendo accettiamo qualunque cosa, cioè noi accettiamo l'idea di essere dei sudditi a vita, e una qualunque interpretazione estensiva dell'imposta ci porterà a dover accettare qualunque cosa. Ecco, a me questo, devo dire, preoccupa ancora di più dei casi singoli. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.50, tre esempi di follia fiscale nel nostro paese, con pretese dello Stato che siano pienamente legittime. Vi abbiamo spiegato in cosa consiste questa interpretazione estensiva dell'imposta di pubblicità in atto al Comune di Bologna, per cui addirittura se un esercizio pubblico indica fuori gli orari in cui serve i suoi servizi, se si tratta di un ristoratore, di una rosticceria o un menù o una qualunque cosa, quella è un'insegna pubblicitaria su cui pagare qualunque cosa. E un medico, un farmacista, riportano le cronache, che ha beccato 1.500 euro per quello che c'era scritto nella sua vetrina, ha messo in vetrina anche il verbale di 1.500 euro dicendo e adesso multatemi anche questo, perché sarà propaganda e pubblicità anche questo. Poi il caso di Torino, pensate, questo contribuente di Torino che dopo dal 1989 al 2013 è in contenzioso fino al terzo grado e vince per una cartella erariale arrivatagli illegittima, non dovuta, e aspetta tutti quegli anni per vedersi riconosciuto la fondatezza della sua impugnativa, e dopo 24 anni sì, l'agenzia di entrate gli restituisce finalmente i 12.000 euro, ma non gli interessi dovuti, e quando lui va due volte a chiedere, l'agenzia delle entrate gli risponde, una gentilissima funzionaria, gli risponde che non sono in grado di calcolare gli interessi che gli devono perché manca il software per calcolarli in automatico. Il software per fare un'operazione di interesse composto, ripeto, uno non lo sa fare a mano, beh, una qualunque calcolatrice. Ecco, ma questa è la risposta che viene data al contribuente torinese. Tenete conto che l'Agenzia delle Entrate, con questo caso sollevato due volte dal quotidiano di Torino alla Stampa, fino a questo momento non ha dato alcuna risposta. Io vi dirò la verità, sognerei un paese in cui il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, non so, il Ministro competente, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, qualcuno si faccia vivo con questo contribuente, dia le sue scuse formali, e annunci anche poi che qualche dirigente dell'Agenzia delle Entrate responsabile di questo procedimento e di questa risposta è stato sottoposto ai giusti procedimenti disciplinari. Ma come si può accettare l'idea che manca il software per fare un'operazione di banale interesse composto? Il software manca. Ecco, questa è la realtà con cui siamo alle prese. Allora, sentiamo le vostre telefonate e poi torniamo a commentare con il direttore Confesercenti di Bologna, che ci ha appena spiegato che loro stessi, di fronte all'idea di un'impugnativa che a me sembrava sacrosanta, dicono, eh sì, però la realtà è che l'interpretazione estensiva della norma ci mette nei guai. Non è che possiamo essere sicuri che ce la accolgono. Sentiamo come la pensa di quello che abbiamo detto Mario da Treviso. Prego Mario. Sì, buonasera Giannino, io sono un masochista e continuo ad ascoltare la sua trasmissione che è un pugno allo stomaco ogni volta, al sabato mattina poi mi fa passare la fame, a differenza di Davide Paolini, come il film dell'orrore, continuo a guardare attraverso le dita. Volevo raccontarle la vecchia storia di cieca bestialità del fisco negli anni 70-71, mio padre ha pagato un bollettino UTIF, si ricorda, si pagava perché erano veri alcolici, dove avevano profumi, 40.000 lire all'esattoria, erano bollettini prestampati, quello di Treviso invece che di Oderzo. L'agenzia di Oderzo ha chiesto il pagamento di quei 40, lui ha dato quel bollettino, quando ha pagato a Treviso, no, devi ripagare e ti fai chiedere e ti dà chiedi il rimborso. Credo che in Betuania si sarebbero arrangiati tra di loro e il tassato sarebbe stato tranquillo. Ho fatto fotocopia del bollettino con, si ricorda, quella carta rosa che mettevi sopra sotto, ho mandato la richiesta di rimborso all'agenzia di entrata di Treviso e mi è arrivata una risposta in busta con tassa carico al destinatario di pagare 14.000 lire di multa perché la richiesta l'aveva fatta in carta bollata. Ecco. E non in carta semplice. Va bene Mario, e ti ringrazio per averci dato questi ulteriori esempi, tanto si potrebbe andare avanti a anni interi di diretta, potremmo fare. Alessandro da Milano, prego Alessandro. Buonasera. Buonasera. Ecco, volevo un attimo fare un piccolo commento su questi esempi. Cioè, mi sembra che siamo passati da un mondo in cui le tasse sono il 35% dei cittadini e con quei soldi vanno fatte delle cose per il cittadino, a un mondo in cui invece il fabbisogno è dato e le tasse poi vanno cercate creativamente. Direi di sì, cittadini. Direi di sì, Alessandro. È quello che è esattamente, posso dire, purtroppo è un principio adottato e confermato dalla giurisprudenza costituzionale, quello che lei fa con questo esempio. E cioè è lo stesso motivo per il quale la settimana scorsa la Corte Costituzionale, cassando, giudicando incostituzionale la Robin Tax, cioè la sovraaliquota imposta dallo Stato nel 2008 per le imprese energetiche, la Corte Costituzionale l'ha bocciata, però esattamente per il principio che ha ricordato lei, ha detto lo Stato non restituisce un solo euro, pur incassato per miliardi, perché lo Stato ha incassato miliardi sommati negli anni da allora, per la Robin Tax, non restituisce un euro esattamente perché il fabbisogno è dato, come diceva lei. La differenza è che quando ovviamente un contribuente calcola male per errore oppure per dolo evade e viene beccato, come è giusto, come mi sembra giusto, si becca non solo tutto quello che non ha pagato, ma le sanzioni sopra. Non è che puoi dire allo Stato: quel che è stato, per il passato non ti pago. Lo Stato invece non ci paga per il passato, anche quando ha torto certificato dalla Corte Costituzionale. Sentiamo Lorenzo da Lecco, prego Lorenzo. Ciao Oscar. Ciao. Io sono un avvocato fiscalista. E quindi questa materia ne sai qualcosa? Particolarmente, però volevo partire proprio da un principio, un esempio semplice che sta alla base di tutte queste contestazioni, perché l'acconto delle tasse, delle imposte, parliamo di imposte. Sì. L'acconto delle imposte vuol dire che io finanzio lo Stato pagando le imposte dell'anno successivo all'anno precedente in forma di acconto. E lo Stato cosa ci regala dietro questo acconto? Ci regala il fatto che se noi ritardiamo di un solo giorno ci multa con una sanzione. È come se io andassi in banca a chiedere un mutuo, la banca me lo concede un giorno dopo e io gli faccio la sanzione perché me l'ha concesso un giorno dopo. Questo è un principio che dice un po' tutto, no? No, è la simmetria totale dei rapporti, ovviamente, tra contribuente e Stato. Mi dispiace per Gianni Emanuele e tutti gli altri che avevano telefonato, perché la trasmissione dura poco. Intanto un grazie anche al direttore di Confesercenti, piena solidarietà agli esercenti di Bologna. E qui c'erano telefonate che dicevano che anche a Pordenone negli anni passati sono successi casi simili. Mi sarebbe piaciuto capire come si sono regolati. Comunque, appuntamento a domani con me, continuate a guardare 24.